Il terzo anello, ad alta voce, la montagna incantata di Thomas Mann. Fra l'ingresso e la porta vetrata c'era la stanzetta del portiere, e di là venne loro incontro un inserviente di tipo francese, che li guidò attraverso l'atrio, sul cui lato sinistro si aprivano stanze di soggiorno. Passando, Castorpe vi lanciò un'occhiata e vide che erano deserte. Domandò dove fossero i clienti e suo cugino rispose: «Fanno la cura dello sdraio. Io avevo oggi libera uscita per venirti a prendere alla stazione, altrimenti sto anch'io dopo cena coricato sul balcone». Poco mancò che Castorpe fosse di nuovo preso dalla voglia di ridere. «Come? Anche di notte state coricati sul balcone?» domandò con voce esitante. «Sì, è il regolamento, dalle 8 alle 10. Ma vieni, vieni a vedere la tua camera e a lavarti le mani». Montarono nell'ascensore, il cui meccanismo elettrico era messo in azione dal francese. Durante la salita, Castorpe si asciugò gli occhi. «Eccoti qua», disse Joachim, «numero 34. A destra sto io, a sinistra una coppia russa, un po' trasandata e rumorosa, devo dire, ma non si è potuto fare altrimenti. Beh, che ne dici?» La porta era doppia, con attaccapanni nel vano interno. Joachim aveva acceso la lampada del soffitto e alla sua luce tremula la camera si presentò serena e tranquilla, coi mobili bianchi, pratici, la tappezzeria pure bianca, resistente, lavabile, il pavimento di linoleum pulito e le tende di lino semplici, di gusto moderno, con ricami graziosi. La porta del balcone era aperta, si vedevano i lumi nella valle e si udiva una lontana musica da ballo. Il buon Joachim aveva messo alcuni fiori in un vasetto sul cassettone, quel che aveva potuto trovare fra un'erba e l'altra, un po' di millefoglie e alcune campanule, colte con le sue mani sul versante. «Molto gentile», disse Castorp. «Che bella camera! Qui si può stare bene e volentieri qualche settimana. Ieri l'altro è morta qui un'americana», raccontò Joachim. «Behrens aveva detto subito che sarebbe finita prima del tuo arrivo. E poi potevi avere la camera». «Ma non c'è riscaldamento qui?» domandò a un tratto Castorpe e corse a posare le mani sui tubi. «No, qui ci tengono piuttosto al fresco», rispose Joachim. «Ci vuole altro perché in agosto si accendano i caloriferi». «Agosto, agosto», esclamò Castorpe. «Ma io ho un freddo cane per tutto il corpo, intendo, poiché in viso si vede che sono accaldato. Toh, senti come scotto». La pretesa che gli si toccasse il viso non s'intonava affatto al carattere di Castorp e a lui stesso parve incresciosa. Joachim non la prese sul serio e si limitò a dire: «È l'aria, non ha importanza. Anche Behrens ha le guance blu tutto il giorno. Cettuni non si abituano mai. Beh, go on, altrimenti non si becca più niente da mangiare». Ma al primo piano Castorp si fermò all'improvviso, paralizzato da un rumore veramente orrendo che si fece udire a breve distanza, dietro alla svolta del corridoio. Un rumore non forte, ma così decisamente ripugnante che Castorpe fece una smorfia e guardò il cugino con gli occhi spalancati. Era tosse. Evidentemente una tosse maschile. «Eh sì», avvertì Joachim, «qui andiamo male. Un aristocratico austriaco, sai, un uomo elegante, nato per fare il gentleman rider. E ora è a questo punto. Ma va ancora in giro». Quella tosse era tale che non assomigliava a nessun'altra che Castorp avesse mai udita. Anzi, al paragone ogni altra tosse a lui nota era stata una magnifica e sana manifestazione di vita. Una tosse senza alcun piacere o amore, che non veniva a colpi giusti, ma era come un raccapricciante e impotente frugare dentro la fanghiglia di un dissolvimento organico. Il ristorante era luminoso, elegante e familiare. Ordinarono una bottiglia di Griola Rose, che Castorp mandò indietro affinché fosse portata a una temperatura migliore. I cibi erano eccellenti. Furono serviti una zuppa d'asparagi, pomodori ripieni, arrosto con vari contorni, un dolce di particolare bontà, diversi formaggi e frutta. Castorp mangiò molto, benché il suo appetito non si rivelasse gagliardo come egli aveva previsto, ma era avvezzo a mangiar molto, anche quando non aveva fame, e precisamente per la stima che aveva di se stesso. Joachim non fece molto onore alle portate. «Era stufo di quella cucina», disse. «Lo erano tutti lassù, ed era costume di dir male del vitto, poiché, quando si stava lì da tempo immemorabile, per contro beve di quel vino con piacere, anzi con un certo entusiasmo». Ed evitando accuratamente le frasi troppo sentimentali, espresse più volte la sua soddisfazione di aver qualcuno con cui scambiare una parola ragionevole. «È una manna che tu sia venuto», esclamò, e la sua voce calma era commossa. «Per me posso dire che è un vero avvenimento. È un diversivo una buona volta, un taglio, intendo, una cesura in questa eterna, illimitata monotonia». «Ma qui il tempo vi dovrebbe passare veloce», osservò Castorp. «Veloce e lento, come vuoi», rispose Joachim. «Non passa affatto. Ti dirò, non è nemmeno tempo e non è vita». «No, non lo è», disse scotendo il capo e riprendendo il bicchiere. Anche Castorp beveva, benché avesse la faccia affocata, ma per tutto il corpo sentiva ancora freddo e nelle membra aveva una particolare inquietudine, lieta e tuttavia un poco dolorosa. Le sue parole si accavallavano, spesso ne diceva una per l'altra e ci passava sopra con un gesto sprezzante. Volle poi che Joachim gli parlasse ancora della vita che faceva quassù e degli ospiti, cosa che il cugino fece volentieri per potersi alleggerire e sfogare. Dovette ripetere la faccenda delle salme che si spedivano giù in Guidoslitta e assicurare di nuovo espressamente che era la pura verità. Siccome Castorp aveva ripreso a ridere, rise anche lui, pareva se la godesse, e riferì altre cose buffe per dare esca all'allegria. «C'era a tavola con lui», raccontò, «una signora Storr, malata abbastanza seriamente, moglie di un musicista di Cannstatt, la persona più ignorante che gli fosse capitato di incontrare. Desinfezione, diceva, ma seriamente, e chiamava l'assistente Krokowski l'esistente. E questa roba bisognava mandarla giù senza batter ciglio. Oltre a ciò, era maldicente e pettegola, come del resto quasi tutte lassù. E di un'altra della signora Iltis andava dicendo che portava un cortiletto, così lo chiama, è impagabile. E riversi, abbandonati sulla spalliera della sedia, risero fino a far sussultare il ventre e a farsi venire entrambi il singhiozzo. Ma intanto Joachim si rannuvolò e ripensò alla sua sorte. «Ecco, qui siamo e ridiamo», cominciò con espressione dolente, «e dire che chissà quando uscirò di qui, perché quando Behrens dice 6 mesi fa un calcolo stretto, bisogna sempre aspettarsi qualcosa di più. Ma è dura, dillo tu, è ben triste per me. Ero già ammesso e tra un mese darei l'esame di ufficiale. Così invece sto qui a oziare, col termometro in bocca e a contare gli spropositi di questa ignorante signora Storr e perdo il mio tempo. Un anno conta molto alla nostra età. Nella vita laggiù segna un mucchio di mutamenti e progressi. E io devo star qui a stagnare come una pozzanghera. Proprio così, come un fetido stagno. Non è un paragone balordo». Stranamente Castorp rispose soltanto con una domanda. Chiese se si poteva avere del porter. E suo cugino, guardandolo un po' meravigliato, s'accorse che stava addormentandosi. Anzi, dormiva già. «Ma tu dormi!» esclamò. «Vieni, è tempo di andare a letto per tutti e due». «Il tempo non esiste», ribatté Castorp con la lingua torpida. Il dottor Krokowski stava seduto alla luce davanti al caminetto di una delle salette di soggiorno, accanto alla porta scorrevole, e leggeva un giornale. Si alzò quando i due giovani gli si avvicinarono e Joachim sull'attenti disse: «Permetta, dottore, che le presenti mio cugino Castorp, di Amburgo. È appena arrivato». Il dottor Krokowski salutò il nuovo ospite con una certa cordialità serena, vigorosa, incoraggiante, quasi a indicare che davanti a lui era superflua ogni soggezione e conveniente soltanto una lieta fiducia. Aveva su per giù 35 anni, le spalle larghe, era grasso, notevolmente più piccolo dei due che gli stavano davanti, sicché doveva reclinare la testa per guardarli in viso. «Benvenuto, signor Castor. Le auguro di abituarsi presto e di trovarsi a suo agio, tra noi. Viene da noi come paziente, se la domanda è lecita?» Era commovente vedere come Castorp si desse da fare per mostrarsi garbato e dominare la sonnolenza. Si stizzì di essere così poco in forma e con la diffidente autocoscienza dei giovani scorse, nel sorriso e nel tono incoraggiante del dottore, indizi di indulgente ironia. Rispose menzionando le 3 settimane e anche l'esame e aggiungendo che grazie a Dio era perfettamente sano. «Davvero?» domandò l'assistente sporgendo la testa di sbieco, quasi celiando e rafforzando il sorriso. «Ma allora lei è un fenomeno ben degno di studio. Io infatti non ho ancora incontrato un uomo perfettamente sano. Che esame ha dato, se è lecito?» «Sono ingegnere», rispose Hans Castorp con modesto sussiego. «Ah, ingegnere». E il sorriso del dottor Krokowski si ritirò, per così dire. Perdette sul momento un po' di vigore e di cordialità. «Molto bene. E qui non ricorrerà a nessuna cura medica, né fisica, né psichica». «No, no, grazie mille», esclamò Castorp, e per poco non si ritraeva di un passo. Qui proruppe ancora vittorioso il sorriso del dottore, che mentre stringeva di nuovo la mano al giovane, disse ad alta voce: «Beh, dorma bene, signor Castorp, in piena coscienza della sua perfetta salute. Dorma bene e arrivederci». Così congedò i due giovani e si risedette col suo giornale. Joachim accompagnò il cugino al numero 34, dove il francese aveva regolarmente consegnato il bagaglio del nuovo arrivato, e chiacchierarono ancora un quarto d'ora, mentre Castorp tirava fuori la biancheria da notte e l'occorrente per lavarsi, fumando una sigaretta grossa e leggera. «Ha un'aria ragguardevole», commentò mandando fuori il fumo aspirato, «pallido come la cera. Ma senti, ha una calzatura orrenda, calzini di lana grigia. E poi quei sandali, che si sia offeso alla fine?» «È un po' suscettibile», ammise Joachim. «Non dovevi respingere così bruscamente la cura medica, almeno quella psichica. Non vede di buon occhio chi si sottrae». «Beh, vuol dire che l'ho urtato», conchiuse Castorp indispettito. Era scontento di sé per aver arrecato quell'offesa. E anche la stanchezza gli fu addosso, con tutto il suo peso. «Buonanotte», disse. «Non mi reggo più». «Alle 8 vengo a prenderti per la colazione», soggiunse Joachim. E uscì. Prima di coricarsi, Castorp fece soltanto una pulizia sommaria. Il sonno lo vinse non appena ebbe spento la lampada sul comodino. Ma era appena addormentato allorché cominciò a sognare. E sognò quasi ininterrottamente fino al mattino successivo. Vedeva soprattutto Joachim Zimsen, che in una strana positura contorta su una guido slitta scendeva per un percorso obliquo. Era ad un pallore fosforescente, come quello del dottor Krokowski, davanti al quale era seduto alla guida il gentleman rider, dall'aspetto molto vago, come di uno che si sia soltanto udito tossire. «Ciò è del tutto indifferente per noi quassù», diceva il cugino contorto, «perché era lui, non il cavallerizzo, a tossire in quel modo limaccioso e spaventevole». Per questo Castor piangeva amaramente e si convinceva di dover correre in farmacia a procurarsi il Colcrim. Ma sul margine della via era seduta la signora Iltis col muso aguzzo, e teneva in mano quello che doveva essere il suo cortiletto, e invece teneva il rasoio di sicurezza. Ciò provocò di nuovo il riso di Castorp, che in tal modo fu sballottato fra emozioni diverse, finché l'alba si affacciò alla porta semiaperta del balcone e lo svegliò. Hans Castorp aveva soltanto pallidi ricordi della sua vera casa paterna. Aveva appena conosciuto padre e madre. Gli erano morti nel breve periodo fra i suoi 4 e 6 anni. Prima la madre, così all'improvviso, in attesa del parto, in seguito a un'occlusione dei vasi, un'embolia, come la chiamò il dottor Heidekind, che, causata da una nevrite, provocò l'immediata paralisi cardiaca. Stava appunto ridendo, seduta sul letto. Parve che si rovesciasse dal ridere. Ricadde invece, perché era morta. Non era cosa facile da capire per Hans Hermann Castorp, il padre, che teneramente attaccato a sua moglie e per parte sua non molto robusto, non seppe darsene pace. Da allora la sua mente rimase sconvolta e menomata. Nel suo stordimento combinò affari sbagliati, per cui la ditta Castorp e figlio subì sensibili perdite. Nella seconda primavera successiva, durante un'ispezione ai magazzini nel Porto Ventoso, si buscò una polmonite. E poiché il suo cuore scosso non resistette al febbrone, morì, nonostante le cure prodigategli dal dottor Heidekind, entro il quinto giorno. E con un cospicuo intervento della cittadinanza, seguì la moglie nella tomba della famiglia Castorp, situata in bellissima posizione, nel cimitero di Santa Caterina, in vista dell'orto botanico. Non fu un danno per Castorp, perché entrò in casa del console Tinappel, che era stato nominato suo tutore, e là non gli mancò niente, non solo per la sua persona, ma anche per la cura dei suoi interessi, dei quali non sapeva ancora nulla. Infatti il console Tinappel, uno zio della defunta mamma di Hans, amministrò l'eredità dei Castorp, mise in vendita gli immobili, si assunse anche la liquidazione della ditta Castorp e figlio, importazione ed esportazione, e ne ricavò ancora un 400.000 marchi, l'eredità di Hans Castorp, che il console investì in titoli di assoluta sicurezza e, senza pregiudizio dei suoi sentimenti di parentela, al principio di ogni trimestre detraeva per sé dagli interessi in scadenza il 2% di provvigione. Quando cominciò il viaggio nel quale l'abbiamo incontrato, Hans Castorp aveva 23 anni. Allora aveva frequentato 4 semestri al Politecnico di Danzica e ne aveva passati altri 4 alle scuole superiori tecniche di Brunswick e Karlsruhe. Aveva poco prima superato senza gloria e squilli di fanfara, ma con discreto decoro, il primo esame importante e si accingeva a entrare come ingegnere volontario da Thunder e Wilms per ricevere nei cantieri l'istruzione pratica. A questo punto la sua strada fece anzitutto la svolta seguente. Per l'esame aveva dovuto sgobbare di buzzo e a lungo, e quando arrivò a casa aveva un aspetto ancor più scialbo di quanto non consentisse il suo tipo. Il dottor Heidekind, vedendolo, brontolava ogni volta ed esigeva un cambiamento d'aria, ma radicale, e se volevano sentire il suo parere, Hans, prima di entrare nel cantiere, doveva passare qualche settimana in alta montagna. «Tutto bene», disse il console di Napoli al suo pupillo e nipote, «ma in tal caso le loro vie divergevano in quell'estate». Perché lui e Tinappel non l'avrebbero tirato sui monti neanche con gli argani. Perché non andava a trovare Joachim Zimsen? Era una proposta ovvia. Joachim infatti era malato. Non malato come Hans, ma in misura veramente incresciosa. C'era stato persino un attimo di spavento. Era sempre stato soggetto a catarri o a febbre. E un giorno eccoti davvero uno sputo sanguigno. E Joachim in 448 aveva dovuto andare a Davos con suo profondo rammarico e dolore, poiché era sul punto di attuare i suoi desideri. Per volere dei suoi aveva studiato legge un paio di semestri, ma un impulso irresistibile gli aveva fatto cambiare rotta. Aveva chiesto di fare l'aspirante ufficiale e l'avevano anche preso. E ora viveva da oltre 5 mesi nel sanatorio internazionale Berghof, diretto dal consigliere aulico dottor Behrens, e si annoiava quasi a morte, come scriveva nelle cartoline. Se dunque Hans Castorp era disposto a pensare un pochino anche ai fatti suoi, prima di occupare il posto da Thunder e Wilms, nulla era più ovvio che anche lui si recasse lassù per far compagnia al suo povero cugino. Era la soluzione più gradevole per tutti e due. L'estate era già avanzata, quando egli si decise a partire. Si era già alla fine di luglio e partì per 3 settimane.